Trappy gang, cabalismo, nuovo golden tone. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Trappy gang, cabalismo, nuovo golden tone. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Voglio fare i soldi, puoi mangiare solo kosher. Per uni tre quarti di lui sco 10 gocce. Vivevo con Muscia come i due sballati al college. Proiettile vagante finisce che ti coinvolge. Porto il commerciale se vuoi roba che sconvolge. Vendetta, servita fredda perché il piatto dolce. Onestamente il piatto caldo è il mio piatto forte. Penso alla mia borsa come fanno a Francoforte. 300 con la musica e non suono il pianoforte. Vampiro della notte, profanatore di tombe. Fumo fino all'asma, bevo fino alla morte. Pippo finché non ho un cratere sul palato molle. Tracano Jack Daniel, la Frog, Johnny Walker. Sono un vero terrone, giro insieme alle carogne. Il mio Daug stendo un coso grosso almeno quanto un pollice. Non c'è luce in fondo al tunnel, non uscirò dal vortice. Trappy gang, cabalismo, nuovo content. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Trappy gang, cabalismo, nuovo golden tone. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Yeah, il signore delle mosche. Lei è bisex, ma stanotte niente forbice. Io non chiedo scusa, non ammetto le mie colpe. Vorrei fare il dittatore e mandarvi tutti alle due. La mia merda è guerra, un romanzo di Tolkien. Facciani per le coppie, per gli ops sono uno stalker. Giro in Starfit, mentalità da borderline. Si podompe, 1000 euro di bolle. La dia bendata è solo una troia in topless. Ma la ruota gira e non potrò salvarmi in corner. 20 costellate, voglio disgustare il coroner. Il tuo corpo soffre, coagula e poi solve. Qui c'è troppo sangue, non basterà lo scotex. Sono in live su Rotten, voglio portare del content. Kit fottuto Yugi, il nuovo Andrea Volpe. Bianco come un canto gregoriano, nero come un ghost. Trappy gang, cabalismo, nuovo golden tone. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Trappy gang, cabalismo, nuovo golden tone. Eyes on the prize, eyes on me, voglio un golden globe. La mia vita è un rise, contro un baro come Lock and Stock. Faccio i soldi veri, fuck them all, vado off the road. Scam, watchdog, anti-hero, watchman. Maneggio catch liquida, ho la pelle in Gore-Tex. Just do it, Nike col Porter. Voglio leggere i fumetti solo sui Grenoble. Non sono un MC, sono un fottuto trash talk. Che in giro con lo shiesty mask con Ed Warmer. Mi sta tenendo sveglio, non si tratta di una monster. In giro con le armi, bro, io non faccio a botte. Gia, progetto un'ecatombe. Il filo rosso che connette ho tutte foibe. Mi piace questo mondo, tutta sta violenza no sense. La mia merda è hardcore come un ball gag. Killer nel mio roster, la prendo per la gola come un shock slam. Mi tiro un vulcano, bevo un monte. 2000 parole, lascerò il pubblico wordless. Il diavolo riemerge, suonano le trombe. Bicazzo di Yugi.